Grazie per essere intervenuti, ringrazio soprattutto gli autori che hanno aderito a questo progetto, sono 70 autori con 170 firme. Ringrazio anche Regione Emilia-Romagna per avere insieme a Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna sostenuto questo progetto. Il documentando nasce nel 2006 con un semplice database con l'inserimento di trailer, dati sugli autori, le case di distribuzione e di produzione. A distanza di tanti anni abbiamo pensato di trasformarlo in una piattaforma on demand, in streaming, dove sono disponibili film documentari per la loro visione intera. Quindi un passo tecnologico importante che ci ha permesso di inserire su questa nuova piattaforma di libero accesso, importante dirlo, sia in Italia ma in tutto il mondo, questi film. Questi film sono film che sono usciti dalla distribuzione commerciale, quindi sono film che vogliono tenere memoria di tutte le realtà che si sono in questi anni rappresentate. Abbiamo varie tematiche, quindi è una piattaforma dove l'utente può districarsi attraverso sia le tematiche, sia attraverso gli autori che attraverso i titoli. Questo libero accesso farà sì che un'implementazione possa continuare da oggi in poi, affinché questi film possano rimanere non in un cassetto, ma a distribuzione per operatori culturali, per i documentaristi, per l'università e per le scuole. Quindi è una memoria, è una casa del documentario che è iniziata con gli autori di Milano Romagnoli, ma siamo aperti ad autori di tutta Italia. Questo proprio perché è una piattaforma aperta a tutti. Passo la parola con grande piacere e ringraziandolo per la sua presenza all'assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro Fericoli. Grazie Enza. Beh, niente, diciamo che la rivoluzione digitale è in atto, il mondo culturale italiano, anche Emiliano Romagnoli è un po' conservatore, potremmo andare anche più velocemente di quanto andiamo. Io invece sono un apostolo del digitale, predico questa rivoluzione, non dico per le strade con i sandali e i piedi nudi, ma insomma ci vado vicino. Mi fa piacere che questo primo esito di un dialogo che abbiamo avuto già molto tempo fa, quando nel pieno dell'epidemia tutti cercarono di industriarsi per vedere di come mantenere alta e anzi rafforzare la comunicazione mentre, diciamo, la fisicità dei rapporti calava. Questo mi sembra un primo ottimo risultato, è una piattaforma archivio, diciamo, no? Da quello che capisco dalle parole di Enza, quindi un archivio in cui tutto quello che è uscito dalla distribuzione commerciale troverà possibilità di essere visionato, quindi lo metto dentro il grande mondo archivistico bibliotecario, che peraltro per la nostra regione, per le regioni in generale, è un campo di azione molto importante. Penso che sarà bello poi in futuro interrogare anche su come queste nostre piattaforme agiscono, interferiscono, rafforzano anche la stessa azione commerciale, ma sarete voi con la vostra maturazione a decidere quello che è veramente utile, non noi. Intanto, congratulazioni. Adesso, come sempre, quando si apre una piattaforma, si apre un sito, si entra nel grande mondo online, come sempre il problema poi sarà di far sapere che esistiamo, no? E questo di far sì che sempre più persone interferiscano e ci incontrino sulla loro strada mentre navigano nella rete. Concludendo, buon lavoro, auguri e già che siamo a metà dicembre, anche buon Natale a tutti.